Componimento 66esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. L'aere gravato e l'importuna nebbia, compressa intorno da rabbiosi venti, tosto conven che si converta in pioggia, e già son quasi di cristallo i fiumi, e invece dell'erbetta per le valli non se ved'altro che pruine e ghiaccio. Ed io nel cor, via più freddo che ghiaccio, ho di gravi pensier tal una nebbia, qual si leva talor di queste valli, serrate incontra agli amorosi venti, e circundate di stagnanti fiumi quando cade dal ciel più lenta pioggia. In picciol tempo passa ogni gran pioggia, e il caldo fa sparir le nevi e il ghiaccio, di che vanno superbi in vista i fiumi. Né mai nascose il ciel sì folta nebbia che, sopragiunta dal furor di venti, non fuggisse dai poggi e dalle valli. Ma lasso a me non val fiorir de valli, anzi piango al sereno e dalla pioggia, e da gelati e da soavi venti. Ch'allor fia un dí, Madonna, senza il ghiaccio, dentro e di for, senza l'usata nebbia, ch'i vedrò secco il mare, e laghi e i fiumi. Mentre ch'al mar descenderanno i fiumi, e le fiere ameranno ombrose valli, fia dinanzi a begli occhi quella nebbia che fa nascer di miei continua pioggia, e nel bel petto l'indurato ghiaccio che tra del mio sì dolorosi venti. Ben debbo io perdonare a tutti i venti per amor d'un che in mezzo di due fiumi mi chiuse tra l bel verde e l dolce ghiaccio. Tal ch'i depinsi poi per mille valli l'ombra ov'io fui, che né calor né pioggia né suon curava di spezzata nebbia. Ma non fuggio già mai nebbia per venti, come quel dí, né mai fiumi per pioggia, né ghiaccio quando il sole apre le valli. Fine del componimento.